Radio Onda Rossa, Tracce di Cinema, benvenuti a tutti gli ascoltatori e benvenute a tutte le ascoltatrici sintonizzate su questa radio, sugli 87.9, che potete ascoltare anche in streaming sul sito www.ondarossa.info. Oggi un po' banale forse, ragazzi? È una bellissima colonna sonora, sì. È un classico. Io avevo pensato poi a questa trasmissione proprio pensando a questa colonna sonora, che però fino ad oggi non abbiamo avuto il coraggio di fare, perché abbiamo cercato di fare delle cose un po' più alternative, magari. Pinocchio. No, però è una bellissima colonna sonora di un bellissimo film sull'amicizia. In questo caso, in questa puntata. Questa puntata vorrei dedicarla proprio agli amici, a coloro che sostengono questa trasmissione e che anche mi sostengono e che sostengono anche questa radio in qualche modo, Giulia, Claudia, Francesca, Leone, Peter, e voglio dedicarla anche a Vasco dicendogli che tutti sono bravi a navigare quando il mare è calmo. Vasco sa di che cosa sto parlando. Quindi, insomma, puntata su un film con un tema importante, l'amicizia. Qual è questo film? Il Grande Freddo, non l'ho detto? Ancora no. Veramente? Il Grande Freddo, proprio un film importante nella storia del cinema. E noi abbiamo fatto, insomma, una ricerca sulla colonna sonora, che è ricchissima, no, David? È ricchissima e anche molto famosa, molto conosciuta. Sì. E noi abbiamo cercato di tirare fuori un po' i pezzi, un po' quelli più meno conosciuti, sì, però comunque molto belli. Abbiamo escluso qualcuno di quelli più conosciuti perché forse non si potevano più ascoltare. Un po' noiosi, infatti, diventati. Va bene, comunque, insomma, speriamo che vi piaccia. Fateci dei trillini se siete in sintonia con noi. E iniziamo subito con un po' di musica. Things to make me blue with some other guy you E questa era I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye, il pezzo iniziale del film Il Grande Freddo. E questo film, la musica è proprio un elemento portante, è basata completamente la colonna sonora su brani già editi negli anni 60 e 70, gli stessi che i protagonisti del film sicuramente ascoltavano durante gli anni dell'università, e gli stessi brani che il regista Lawrence Kasdan e sua moglie ascoltavano anche loro durante l'università. Infatti hanno scelto insieme questa bellissima colonna sonora, cioè un pezzi anche molto famosi, tra cui quelli dei Procol Harum, i Rolling Stones. La colonna sonora ha avuto anche un disco di platino nel 1998. Marvin Gaye, famosissimo, è un cantautore, produttore, discografico e arrangiatore statunitense, e è stato una delle star di questa famosissima casa discografica che la ha fatto Motown. Sì, che ha fatto un po' la storia della musica durante, insomma, gli anni 60, no? Infatti quasi tutti i brani del film vengono da questa casa discografica. Sì, sì, sì, che è una bellissima storia, magari poi se c'è tempo ne possiamo un po' raccontarla. E intanto, insomma, di Marvin Gaye possiamo dire che iniziò la sua carriera di cantautore e cantante suonando soprattutto dei pezzi che avevano, diciamo, un aspetto così romantico. Ed ebbero talmente tanto successo che a un certo punto lui si stufò appunto di queste facili love song e le abbandonò, e ricco e famoso, insomma, poté continuare a dedicarsi alla musica che più gli piaceva senza sentirsi legato da priorità materiali e commerciali, e in questo modo fu capace di avere un controllo totale sui propri prodotti, rimanendo sempre all'interno della Motown. Sì, uno dei pochi, forse solo Stevie Wonder. Sì, infatti solo lui e Stevie Wonder furono capaci di fare questo. Muore in seguito a un evento tragico, perché viene ucciso dal padre, e la cosa è rimasta ancora, diciamo, misteriosa, insomma, non si sa bene come sono andati i fatti. Tell me what else. Good Loving the Young Rascals è un pezzo bello, ballabile, un mix di garage rock e soul, e sta lì in vetta alle classifiche nel 66. È un primo vero successo dei The Young Rascals, e sempre del un gruppo che faceva parte dell'etichetta del Motown. È stato detto a proposito di questo pezzo che è il più grande esempio in assoluto di un remake che è riuscito a superare la qualità dell'originale. Infatti la canzone è stata scritta da Rudy Clark e Arthur Resnick, ne hanno fatte varie, sono state fatte altre cover, forse meno bella di questa, dei Grateful Dead, ma anche di Bobby McFerrin, una versione vocale che a me piace anche. E qualche notizia sul regista. Lawrence Kasdan ha 35 anni, aveva già sceneggiato L'impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, I predatori dell'arca perduta, Chiamami Aquila, e per non farsi mancare niente aveva diretto e sceneggiato Brivido caldo e naturalmente Il grande freddo. E la sua carriera è proseguita con grandissimi altri successi ed è ancora viva e vegeta, visto che co-sceneggiatore, scusate, del film più atteso del 2015, Star Wars The Force Awakens. E, è stato uno dei grandi geni di Hollywood e in un certo senso ha scritto un po' la storia del cinema americano, e fu nella condizione, grazie a questo, di poter produrre, di poter proporre ai produttori di Hollywood questo Il grande freddo, che inizialmente non era stato visto affatto bene, anche perché il cast era formato da attori che erano quasi completamente sconosciuti all'epoca e che avevano all'attivo qualche film, ma insomma niente di più. Poi era un film corale che non aveva un unico protagonista, quindi la storia non era concentrata su un unico protagonista, ma i protagonisti erano tantissimi e ne fanno poi la ricchezza del film, insomma. William Hurt. Sì, William Hurt, Glenn Close, Sam Webber, Jeff Goldman, Harold Cooper, insomma, dei nomi che poi sono diventati importanti. Pensiamo soltanto che fare un film di questo tipo oggi con questi attori sarebbe un colossal dal punto di vista proprio di cast, no? It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you. Like me, as you take on, as you take any on, time, any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly, tell you why I really wanna know. It's the time of the season for see you. questi erano gli Zombies con Time of the Season. Chi erano gli Zombies? Era un gruppo molto famoso negli anni 60 e 70, sono un gruppo britannico e hanno scalato più volte le vette della classifica, però oggi risultano un po' sconosciuti. Da notare il tastierista molto bravo, come abbiamo ascoltato in questo brano. Il tastierista si chiama Rod Argent e lui insieme al bassista Chris White hanno delle armonie veramente interessanti. Bravo David, che sei riuscito a non confondere tastierista e batterista, come invece ho fatto io, e chiedo scusa agli ascoltatori e a tutti gli esperti di cinema, perché ho elencato i nomi dei protagonisti nel film e non i nomi degli attori che interpretano i ruoli di cui ho fatto elenco, e quindi insomma chiedo scusa, ma insomma può capitare di sbagliare, soprattutto quando ci sono tante tante cose da dire, come nel caso di questo film, scusatemi. I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, cause you mean that much to me. But if I have to cry to keep you, I don't mind weeping if it'll keep you by my side. Ain't you proud of me, sweet darling? Don't leave me, girl, to go. Ain't you proud of me, baby, baby? Please don't leave me, girl, to go. If I have to sleep on your doorstep all night and day, just to from walking away, let your friends laugh, even this I can stand, cause I wanna keep you any way I can. Ain't you proud of me, sweet darling? Please don't leave me, girl. Ain't you proud of me? Sempre la colonna sonora del Grande Freddo, Ain't Too Proud to Beg dei Temptation, cantata da Smokey Robinson, che era il cantante di quasi tutti i brani dei Temptation. Il brano è stato scritto però da Norman Whitfield e Eddie Holland. In particolare si dice in questo brano che Whitfield chiese di Smokey Robertson di cantare su un registro più alto rispetto al solito, tentando di rendere il più possibile aderente al testo a quel senso di dolore che veniva descritta alla canzone. E infatti è una canzone di amore dove appunto sì, non vuole proprio essere lasciato il cantante. Sì, è una supplica alla propria amante perché non lo lasci, non può nemmeno sopportare l'idea che si realizzi questa eventualità. I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. Di questo brano è importante ricordare che fa parte nel film, accompagna la sequenza famosissima di tutti i protagonisti che cucinano, che si alternano in cucina a preparare i piatti. E la particolarità di questa scena è che è stata girata senza che ci fosse un sottofondo musicale vero e proprio. Gli attori hanno dovuto ballare seguendo solo il ritmo del pezzo nella propria mente, e il risultato è effettivamente eccezionale, perché erano dei grandi, insomma, attori, sapevano fare il loro mestiere. Ancora musica non proprio di oggi, insomma di un po' di tempo fa, meravigliosa comunque, Smokey Robertson and the Miracles, e il brano si chiama The Tracks of My Tears. E questo brano ci introduce all'ospite di questa puntata settimanale, Maria Pia Fusco. Ci sei, Maria? Ci sono. Allora, intanto benvenuta alla Tracce di Cinema a Radio Onda Rossa, per un film che ha segnato un po' un periodo, era la metà, i primi anni 80, è un film importante. Beh, direi di sì. Il Grande Freddo, che è diventato un po' un film di culto per i reduci del 68, perché racconta appunto di un gruppo di amici che si ritrovano molti anni dopo aver studiato insieme, aver fatto la contestazione, aver sognato di cambiare il mondo, e si ritrovano invece ciascuno con i suoi problemi. Ed è il film che in qualche modo ha fatto conoscere Lawrence Kasdan in tutto il mondo, anche se va detto che aveva già fatto Brivido Caldo, che era, non so se vi ricordi, ti ricordi quell'incontro, sì, sì, tra, sì, Catherine Turner, credo fosse il suo primo film, se non sbaglio. Il suo primo film da regista, sì. Sì, no, ma anche per Catherine Turner fu il suo lancio, sì, sì, ed sì, era molto erotico, molto, sì, molto osé per gli standard americani. E, comunque, Il Grande Freddo invece è diventato, in realtà poi il film è stato, questo genere di film è stato fatto molte più volte, insomma, in fondo, lasciando stare il 68, è sempre la storia di gruppi di persone che si ritrovano, penso a Compagni di scuola di Carlo Verdone, e che si ritrovano e non sono più quelli di una volta, no? Sì, sì, sì. Il tempo è passato, ha cancellato sogni e illusioni. Questi in questo caso si ritrovano dopo 15 anni, però insomma. Sì. Quella... E si ritrovano per l'occasione, è un funerale. La cosa divertente è che non solo questo film lanciò tantissimi attori, insomma, li rese famosi, da Glenn Close a William Hurt a Kevin Kline, Meg Tilly, ma il morto fu cancellato, che era Kevin Costner. Avrebbe dovuto essere Alex, c'erano dei flashback in cui appariva, però nella versione finale non c'era. Nel montaggio è stato escluso. Nel montaggio preliminare è sparito. Sì. Senti, Maria Fia, comunque questo è il periodo più florido per Kasdan, che veniva già dalla sceneggiatura di due capitoli di Guerre Stellari e dai Predatori dell'Arca Perduta, oltre al Brivido Caldo. E Brivido Caldo insieme al Grande Freddo sono probabilmente i titoli che a livello di immaginario hanno rappresentato l'elemento più importante della sua cinematografia, anche per quanto riguarda i titoli a venire, insomma. Sì. sono i più memorabili, insomma, quelli che sono rimasti più impressi. Sì, poi forse per gli amanti del western c'è Silverado, c'è stata una però la cosa più interessante, guardando la cinematografia di la produzione di Kasdan, è che è indefinibile, voglio dire. Sa fare la commedia, il nero, scrive ancora per la serie dell'Impero, cioè è una personalità veramente multiforme, perché poi funziona, non so se ti ricordi Ti amerò fino ad ammazzarti, che era un nero con Kevin Kline che faceva il pizzaiolo e la moglie non riusciva a farlo fuori, e dove anche lì c'erano William Hurt, era, tra l'altro, credo fosse uno degli ultimi film di River Phoenix, così come in un altro film di cui non mi ricordo il titolo fece l'ultimo film con John Belushi, cioè uno che ha saputo trattare gli attori, ha fatto la commedia, scrive fantasy, il nero, il western, non so cosa vogliamo di più da uno sceneggiatore regista americano. Credo che ancora adesso attivissimo, peraltro, con Grand Canyon ha vinto un Orso d'Oro a Berlino, e anche lì era una storia di amicizia. Ecco, forse un tema che ricorre in tutto è l'amicizia, tanto per voler cercare, no? Sì, noi cerchiamo sempre un filo rosso che leghi la produzione, il lavoro di un cineasta. Sì. Per quanto riguarda il film, stiamo parlando chiaramente del Grande Freddo, rifacendomi a la critica del periodo, una parte della critica non amò il film. Io faccio riferimento, per esempio, ad un decano della critica cinematografica che io seguivo molto all'epoca, era Tullio Kezic, che lui faceva queste brevi recensioni, e c'è una frase che lo sintetizza e dice: il tema è importante, ma lo svolgimento è un po' da canzonetta, perché poi comunque sì, è vero, la colonna sonora è la parte memorabile comunque del film, anche se il giudizio forse è stato un po' più è stato abbastanza tranciante, però insomma un po' severo. In realtà va detto che i dialoghi del film sono scoppiettanti, diciamo, però c'è un modo, probabilmente questo che Kesic sottolineava, di aggiustare le cose, cioè quella che non riesce a rimanere incinta, che allora si fa prestare il marito dai padroni di casa, la ragazza, cioè ci sono un intercalarsi di situazioni forse poco credibili, forse questo ha trovato Kesic, e il dialogo è un po' troppo, in qualche modo è molto scritto, ecco, sai, quando non senti la naturalezza del parlare, però ci sono delle battute e delle situazioni assolutamente esilaranti, insomma, sì, molto sì. divertenti e anche molto malinconiche. Ecco, un'altra qualità probabilmente di Kasdan è quella di sapere armonizzare la malinconia, i momenti drammatici con la leggerezza, e anche questo è un punto forte del suo cinema. Anche in seguito avrebbe fatto la stessa cosa. Sì, stavo scorrendo la sua cinematografia. C'è un altro film corale che probabilmente si richiama un po' al Grande Freddo, che è Grand Canyon, certo, qualche anno che, dopo. Ecco, che è quello che fu premiato a Berlino, sì, sì, nel 98, mi pare, non mi ricordo, insomma, negli ultimi anni 90. Senti, Maria Pia, c'è qualche titolo che hai amato particolarmente di Kasdan? Guarda, io, a parte Il Grande Freddo, insomma, è un film che comunque rimane, no? Sì. E mi divertì molto Turista per caso. Ah, sì, perché sì, c'era, vero, questa storia con William Hurt e Kathleen Turner, che era abbastanza una storia di coppia piuttosto curiosa e piuttosto dove si alternavano tutti i momenti della coppia, nel bene e nel male. E quindi mi insomma, anche quello è un film che ricordo volentieri. Sì, sì. Una bella storia, insomma, sì, un, sì, William, sì, Hurt molto costretto, sì, dal suo ruolo. Sì, sì, era ma lui credo che con Kasdan abbia dato il meglio, insomma, sì, no? Sì, essendo, sì, in fondo è stato lanciato dal Grande Freddo e poi ha lavorato altre volte, più volte con lui, e quindi sì, William Hurt, tra l'altro, io trovo che abbia avuto delle occasioni perdute, nel senso che in qualche film è stato molto deludente, però se trova la storia giusta è sempre un attore. Anche era uno dei più belli, quindi non dimentichiamo anche questo. Come Kevin Klein, sì, che è un altro attore molto amato da Kasdan, che lo ha usato più volte. Kevin Costner, sì, certo, è uno che i suoi attori se li è in qualche modo coccolati. Sì, tutta una nuova generazione, insomma, deve a lui anche il successo posteriore, certo, insomma. Certo, Glenn Close, per esempio, non era questo mostro di bravura che poi è diventata nel tempo, sì, sì, nel Grande Freddo, no? Sì, è vero. Senti, Maria Pia, noi facciamo anche, chiediamo agli ospiti ogni puntata, rispetto al rapporto tra cinema e musica, se hai un tuo film di cui ti piacerebbe fosse dedicata una puntata, la sua colonna sonora. Ah, dura questa, eh? È dura? No, beh, guarda, se vuoi, magari ce ne saranno altri. A me viene in mente Jesus Christ Superstar, che è una colonna sonora. Sì, sì, sì. Però, sì, dai, non è fantastica? Eh sì, eh sì, eh sì. Eh? Va bene. Quello. Ok, ci segniamo questo allora. Sì. Senti, visto che stiamo parlando di cinema, certo, penso che dovrai ricordare Christopher Lee. È vero, è vero, è vero. Ricordiamo, Christopher Lee è scomparso a 93 anni. Sì, sì. E ho avuto la fortuna di fargli un'intervista sia a Locarno sia a Roma due anni fa. Ed è un ricordo indimenticabile. Scusa se mi sono intromessa, no, con, no, questa cosa, carità, ma... Sì, tra l'altro è rimasto nell'immaginario, famoso per i suoi film dell'orrore, un po', certo, gotici, certo, però, insomma, Frankenstein e Dracula, esatto, sì, però lui non voleva chiamarli cattivi, voleva che si definissero eroi negativi. Sì, sì, sì, sì, non gli piaceva, però insomma è stato un attore grande in sì, senso più ampio, sì. E poi ha fatto il cattivo Saruman, come si chiama il personaggio che continua a fare con gli Hobbit, voglio dire. Sì, sì, sì, sì. Ha lavorato fino alla fine, insomma, fino all'ultimo, ha avuto una gran bella vita. Sì. Bene, allora mi fa piacere anche questo ricordo con te. Io ti abbraccio, ti ringrazio e ci sentiamo magari una delle prossime puntate. Alla prossima. Buona giornata. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie, ciao. e tanta gioia per tutti. Questa è sempre la colonna sonora del Grande Freddo. Abbiamo ascoltato Joy to the World dei Three Dog Nights, e siccome abbiamo tanti brani da mettere questa volta, dei gruppo The Exciters, una band quasi del tutto femminile, registrata nel 63, e questo brano vanta un'intensità che ha significato un cambiamento epocale nella presentazione e percezione della femminilità nella musica popolare, ha detto qualcuno. E vorrei approfondire il titolo di questo film, no? Il Grande Freddo. The Big Chill. Sì, che cosa significa? Perché, che vuol dire? Voi lo sapete? Perché ha scelto Kasdan questo titolo? Il freddo esterno. Il freddo esterno, bravo Federico, sei sempre preparato, non ti colgo mai di sorpresa, che rabbia. E è appunto questo, cioè l'amicizia, il ricordo delle avventure passate insieme, la nostalgia dei tempi andati, il calore dell'amicizia di questo gruppo di amici è in fondo l'unico antidoto al grande freddo del mondo esterno, in cui tutti si sentono estranei. E questa è una cosa molto bella, perché in fondo è proprio così, l'amicizia riscalda nei momenti, insomma, più freddi della vita. E questa colonna sonora che stiamo ascoltando è divisa tra vari CD che sono usciti. È uscito un CD dell'Host, dell'Original Soundtrack, che è quello che trovate, il Grande Freddo, e poi è uscita una compilation deluxe lussuosa, perché costa molto di più, perché sono due CD, costa il doppio, dal quale ho preso i brani meno conosciuti, sì, ma comunque bellissimi, e che ha all'interno un numero di brani enorme. My own home. E vi sentite bene dopo questo brano? Era infatti Joe Cocker, Feeling Alright, un brano trascinante, veramente bello. E sempre la colonna sonora del Grande Freddo, abbiamo ascoltato The Wait del gruppo canadese The Band. Questa canzone è stata scritta nel 68 e che dire dei Band, uno dei gruppi più affascinanti della storia del rock. Hanno un'originale orchestra acustica che ha suonato proprio il rock delle radici e legate anche alla leggenda della frontiera. E sì, poi The Band, a parte insomma avere una storia lunghissima che è pure difficile da riassumere, mi perderò, scusatemi, però insomma la cosa importante da dire è che sono stati affiatatissimi il frontman di questo gruppo, che era Robertson, con Bob Dylan, con il quale si sono incontrati e c'è stato un grandissimo feeling e sono diventati inseparabili. Sono stati proprio il gruppo spalla durante un leggendario tour mondiale di Dylan tra il 65 e il 66. Hanno continuato a collaborare, insomma, a vivere insieme questa esperienza musicale di quel periodo, insomma, importantissimo, fino a quando Bob Dylan ha avuto un incidente con una moto, qualcosa del genere, e si è ricoverato in una villa, e loro hanno preso in affitto una grande villa proprio lì vicino, dipinta di rosa, ribattezzata Big Pink, e in questo periodo hanno scritto i pezzi per il loro migliore album, che è In Music from Big Pink del 1968, in cui è racchiuso questo brano che abbiamo sentito, The Wait, edito anche a 45 giri, unico hit in carriera, inserito poi anche nella colonna sonora di Easy Rider, oltre che in questa. E il momento di apertura della chitarra acustica è bellissimo, poi il pianoforte, le voci, insomma veramente un gran bel pezzo. Rocolarum, A Whiter Shade of Pale, pezzo manifesto di questo film. Ho dovuto lottare con Federico per metterlo, ma ci siamo riusciti, siamo arrivati ai saluti. Io ho nel mio portafoglio una cospicua somma di denaro da devolvere a questa radio che mi è stata donata da amici e sostenitori di Radio Onda Rossa, quindi prendete esempio da loro, sostenete Radio Onda Rossa sempre e comunque con quello che potete, naturalmente. Beh, per sottoscrivere dovete usare il conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Voci 56 00185, Roma. Prometto di non spenderlo come ho fatto la prossima settimana facendoci la spesa, ma oggi di devolverlo veramente alla radio. Oh, siamo ai saluti, a giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16 ci salutiamo con i Rolling Stones, che sono, se non sbaglio, in apertura del film. Oh, Thank you.